Finalmente ho capito che sentirsi sbagliato nei confronti degli ambienti principali dove vivo è come mettere una bandiera sgargiante in un territorio completamente incolore. Preso male da sta vita riempita di corse, intrappolato da routine come morse, i miei progetti accantonati poi marchiati con un forse, risposte disperse, risorse. Non ci sto più in mezzo a mille compromessi, perché per 10 furbi qua ci stanno 100 fessi, e non ci sono muri così spessi, chi li erige finti soldi sono sempre gli stessi. In mezzo a sto macello io non stacco la spina, anche se per ogni sogno manca la materia prima. Si va sperando nel sereno all'orizzonte, sapendo che sto mondo non ti offre ma ti toglie, e non c'è niente di esattamente giusto né sbagliato, dipende dal tragitto da che punto sei arrivato, dipende a cosa ambisci, se pindarici i tuoi voli, sono mille le risposte per mille direzioni. Guardati dentro, ti riesci a ritrovare. Dipende tutto, sai da che punto guardi il mondo. Occhi davanti pure dietro la mia testa, l'inganno te se fila non s'arresta questa bestia. Mi chiedono perché non sono positivo, non serve una leggenda per capire ciò che scrivo. Mi son venduto troppe volte a troppi dei, paradiso cade i ricchi tanto non ci finirei. Dove sei? Io non c'è quando sudi la pagnotta e l'asfalto sotto i piedi qua che trema e scotta. Di facce false già hanno fatto la raccolta, ma non mi eviterà di essere fottuto un'altra volta. Io sono fatto così, un po' speciale, speciale come chi ci crede ancora in mezzo a sto letame. Mi hanno insegnato a non lasciare quando affonda la nave, a non cercare la pagliuzza quando c'ho una trave. La mia strada non è mai finita, puoi comprare proprio tutto, tutto tranne la mia vita. Guardati dentro, ti riesci a ritrovare.